Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all when there il mio studio con tanta roba dentro nel mio passato. Ho avuto 5 squadre: volley campione del mondo, rugby campione d'Europa, hockey campione d'Europa, rugby campione d'Italia, baseball e calcio. I've had my fill, my share of losing. Chi è quella persona lì con il microfono? Questo qui sono io? Sono io che canto a 16 anni, sì. È una fotografia mia, precisa, uguale, sono io che canto a 16 anni. Vi dicevo che ero sempre il più bello della spiaggia, no? To think I did all that, and may I say, not in a shy way. Vladimir è una persona molto sensibile, ha un sentire, come dire, delicato, è un vero guerriero della libertà e della democrazia nel suo paese. Vladimir Putin. Sì, esce la biografia di Silvio Berlusconi, My Way, e Alan Friedman va nel suo studio dove c'ha le squadre di calcio, dove fanno un gran bel giuoco. Non di recente. Ah, tra l'altro Berlusconi ha detto che il Milan lo venderà solo quando avrà nuovamente vinto. Spero, non so, contro l'Empoli doveva aggiungere, perché sennò attendiamo. Io attendo almeno, Lorenzo Nespoli attende, Peter Bescapeo attende, perché sapete che qui se non sono milanisti non li assumiamo a 24 mattino. Però insomma, Berlusca, il Berlusca, era il più bello della spiaggia, 16 anni già. If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blow. Sì, alle 6:31 minuti. Eccoci a una nuova puntata di 24 mattino, cari amici. Al 349-238-6666 potete mandare, yes, i vostri messaggi. Siamo qui. Intanto saluto il nostro super mega Dir. Cosa ti è successo? Luca? Luca? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Perché ridi come ridi con una voce femminile? Luca? No, ah no, è l'altra che ride, è l'altra che ride, è l'altra che ride. Allora, il nostro il nostro direttore di Vanity Fair, come eri tu a 16 anni, il più bello della spiaggia, il più figo del bigoncio? Certo, per mia mamma sì. Ecco, certo, ogni scarrafone, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Allora, anche il più alto. Anche il più alto, anche il più bravo a scuola, anche il più bravo a scuola. No, dico lui, era anche il più alto. Ah, lui era anche il più alto, giusto, giusto, giusto. Allora, insieme a Luca Dini, appunto, abbiamo Paola Saluzzi. Cara Paola. Ma buongiorno. Ma buongiorno. Ma come? Io ridacchio. Ma vedi, buongiorno dir, buongiorno. Ma Paola, buongiorno. Vedi che non è partita la sigla, Paola? Non è partita la sigla. Non ho notato. Non è partita perché la sigla. Non è partita la sigla. Perché c'è una mega sorpresona. Attenzione, eccola qui. Con la nuova stagione Radio 24 cambia completamente e diventa Paola 24. 24 ore solo di Paola Saluzzi. Alle 6.33 Paola Mattino, con due tizi di cui a questo punto non ce ne frega assolutamente nulla. Alle 10 Mix Paola, programma di approfondimento. A mezzogiorno Paola Salute, aggiornamenti sulla salute di Paola. Alle 16 Paola Sport, per tifare con Paola. Alle 18.30 La Zanzara di Paola, per sentirci insulti e minacce insieme a Paola. E da mezzanotte la radio diventa Paola by Night. Paola, vabbè, no, questo uomo è un genio. Tutta la notte, inesorabilmente, per ascoltare la voce di Paola fino alle 6.33. Con la nuova stagione, la radio da ascoltare è Paola 24. Paola 24, la passione si sente. No, ditemi dove abita. Ma, guarda, io non lo so. Allora, questo è un nostro. Ma certo. Questo è un mostro di genialità. È un nostro ascoltatore che ci ascolta. Voi udite dal Canada, e al quale voglio mandare dal Canada. Wow. E ci ha mandato la nuova sigla. L'abbiamo scoperto. E lui dal Canada ti mandiamo un. Cosa ti dobbiamo mandare? Paolo, God bless you, prima di tutto. God bless you wherever you are. Ma grazie, grazie. Andrò in Canada per conoscere questo signore, assolutamente. Dobbiamo farlo. E quindi soddisfazione. Alle 11 Paola Salute, secondo me è il programma più bello. Paola Salute. Meraviglioso, Paola Salute è così. Gli è uscita. No, allora, la sorpresa c'è tutta. Ringrazio commossa. Vabbè. Made my day, anzi. Te lo manderò via mail, così lo puoi mettere come suoneria, dura un minuto e cinque, insomma, una suoneria di quello. Ma posso suonare il telefono per un minuto? Tutto, esatto, questo punto. Esatto. Sappiate che non rispondo se non al minuto e 06, così, quindi tempo e soddisfazioni. È la nuova sigla per la nostra Paola Salute. Paola Salute. Grazie. Eccola qui. Allora, cari amici, qui apriamo il Parlamento perché ci sono tante cose da dire. Io non so da dove cominciare. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi. Non so se volere cominciare dalla vicenda della guerra, visto che forse bombardiamo. Ma tra l'altro, sì, dai, iniziamo da questo, anche se non è un argomento molto allegro alle 6.35 del mattino, ma non vorrei che andiamo a buttare due bombettine per negoziare un seggio nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU, seggio non permanente peraltro. Non vorrei, Luca Dini, che stessimo per fare questa cosa così, per acquisire un po' di peso diplomatico, ma queste cose succedono, può anche essere. Oddio, spero di no. A parte, sai, voglio dire, buttare due bombe sono sempre cose, insomma, io penso sempre a chi c'è di là, chi c'è sotto. Non voglio dire, ci sono decisioni a volte necessarie, ci sono decisioni che si possono evitare. Non so che dire. No, per carità, io è un dibattito che c'è stato, cioè se bombardare l'ISIS, ovviamente stiamo parlando di bombardare in Iraq l'ISIS, le postazioni dello Stato Islamico, non certo dei santerellini, questo certamente. No, l'importante come si è visto in questi giorni è prendere i bersagli giusti. Appunto, perché negli occhi abbiamo, per chi ha letto ancora, la vicenda di Kunduz, anche se in Afghanistan, in un altro paese, ma lì insomma abbiamo bombardato, meglio gli americani hanno bombardato, ed è abbastanza ormai accertato che hanno bombardato. Anche l'amico, il campione della democrazia, l'amico Vladimiro, non si sa bene chi abbia bombardato, se genericamente quelli che danno fastidio ad Assad oppure l'ISIS. Eh sì, ma quando si bombarda poi non si sa, mica c'è qualcuno che... No, lui lo sa. Ah, vabbè, chiaro, ma non è che c'è uno indipendente sul campo che dice allora è stato bombardato questo. Per carità, non vogliamo fare neanche le mammolette, Paola, la guerra c'è... No, ecco, questo no, perché la guerra purtroppo ripete se stessa come la storia ripete se stessa. Cavour ha mandato... bersaglieri, il Lo Tempore per sedersi ad un tavolo di pace e per far partire da lì tutta una manovra politica che ha portato nel bene o nel male a essere chi siamo oggi. Mm-hmm. Questa storia va capita meglio, chiaramente. Sì. Capita meglio significa capita meglio da noi, e fai benissimo Alessandro a sollevare la questione, perché poi chi dà le notizie per primo deve capire meglio cosa stia accadendo. No? Intanto a capire, ma il fatto che l'Italia possa bombardare con gli aerei adesso. Comprendere se questo sia possibile. A te disturba l'idea? Non so, perché sennò che cosa mandiamo i tornado a fare, voglio dire? Cioè o uno fa... No vabbè, sarebbe ipocrita dire che fanno bene gli altri a farlo. Appunto, perché siamo nella NATO. Dobbiamo però vedere anche se noi facciamo parte di un'alleanza. Prego Luca, vai. Dici... O sei contrario, a che lo faccia chiunque, oppure... lo scandalo non è che partecipi l'Italia con due o tre. No, è chiaro, non vorrei neanche che l'Italia facesse al solito. Noi partecipiamo, ma noi non bombardiamo, noi siamo un po' più onesti, un po'. No, voglio dire, se fai parte di una coalizione e il tuo alleato bombarda, è come se hai bombardato anche tu. Adesso non facciamo. L'importante è non partire come è partito Nicolas Sarkozy una mattina dicendo voilà, si bombarda. Ma dice un attimo, scusi. Chi, dove, come, perché. Ecco, l'importante è non fare nella stessa maniera. Poi capire se tutto questo corrisponde alla parola guerra, perché è poco da fare, insomma, la guerra c'è. Cioè, anche lì, come la vogliamo chiamare? Cioè, per carità, io capisco la Costituzione, l'Italia ripudia la guerra, ma se c'è, voglio dire, una decisione di bombardare qualcuno perché sta organizzando, per esempio, degli attentati, perché non rispetta la democrazia, come la vogliamo chiamare? Non la vogliamo chiamare guerra? La vogliamo chiamare... No, perché sennò... No. Guerra è guerra e onestamente non l'abbiamo iniziata noi. Infatti. Attendere ulteriori notizie. Scusami. Attendere ulteriori notizie. Cominciare a farsi qualche domanda, anche insomma, a chiedersi senza ipocrisie chi è che aiuta ISIS, forse... Esatto. Fagli una telefonata. Per carità, non voglio fare l'associazione, perché sicuramente non saranno loro che aiutano l'ISIS. Ma per esempio la notizia che a Torino, al Salone di Torino, abbiano deciso di negare all'Arabia Saudita il ruolo di paese ospite alla prossima fiera del libro, perché era l'Arabia Saudita. Io me ne sono occupato, c'è tutta la vicenda di questo ragazzo saudita condannato a morte, arrestato quando aveva 17 anni, ed è questo il motivo per cui è stato deciso di negare all'Arabia Saudita questo ruolo. Allora, la questione è, hanno fatto bene, abbiamo fatto, secondo me sì, Paola Saluzzi, sì. Anche se è scomodo, però secondo me sì. Paola, Luca, tu che dici? Io credo e spero che i primi a voler essere d'accordo siano quelle persone, uomini e donne dall'Arabia Saudita, che considerino un orrore quello che è stato promesso a questo ragazzo. È ingiusto, senz'altro, per quelli che non c'entrano niente con quelle decisioni, ma è giusto perché si accenda una luce, occhio di bue, di quelli belli forti, sì, sotto la teatro, a palco spento solo sulla... È chiaro, no, perché ce lo troviamo decapitato, crocifisso, appeso a un palo e tutti zitti, e tutti zitti sopra... siamo già passati sopra all'archeologo che ha tentato di salvare, ce l'ha fatta, tanti tesori a Palmira e Affini, che è stato a 80 anni decapitato e poi il corpo è stato esposto su un palo della luce. Allora magari no, perché guarda che l'ambasciatore saudita, Massimo, rispetto per l'ambasciatore saudita, no, però è chiaro, fa un intervento oggi sull'Unità, che ripeto è l'unico giornale, l'unico quotidiano che tutti i giorni metteva la foto di questo ragazzo al Nimr e ancora la mette oggi dicendo salviamolo, e c'è oggi l'ambasciatore saudita che fa un intervento, dice piccato, a dire che il colonialismo ci è finito e non bisogna fare ingerenze sugli affari interni dei paesi. Hai capito, Lucadini? Tu che anche... Vabbè, che cosa deve dire? Sì, però ci sono, diciamo che la decisione di Torino è sacrosanta e non solo per quel motivo lì, ce ne sono molti altri. E questo lo pensano non soltanto molte persone in Arabia Saudita, ma molti nei paesi vicini, che sono sempre più preoccupati e spaventati da certe posizioni che prima o poi, secondo me, saranno pericolose anche per chi, appunto, per i cittadini di quel paese che non hanno nessuna responsabilità. No, ma non c'è dubbio. A proposito di bombardamenti, ma il Crozza che... Qui si sorride, perché fortunatamente è satira, ma sentite il Crozza di due giorni fa. Italiani di cielo, di terra e di mare, il momento delle decisioni irrevocabili è giunto. L'Italia bombarderà Rai 3. No. Ah no, scusate, l'ISIS. Ieri Crozza. Non è male questa, non è male, caro Lucadini. Il Renzi con stile, come dire, un pochino passato, un pochino di qualche anno fa, bombardare Rai 3. Ma invece vede Sky, Paola, sempre conferma, vede Sky. Vede Sky. Confermato. Sei un po' preoccupata, se no che ti parta qualche tornado sulla testa. No, magari. Sempre ottimista. Vabbè, sì, ho capito, però chi lo sa. Allora, vabbè, stiamo a vedere, ovviamente il Ministero della Difesa tra l'altro ha smentito, c'è anche tutto il passaggio parlamentare, le polemiche politiche sul fatto che questa voce dell'attacco in Iraq sia, come dire, sia filtrata laddove non doveva filtrare ed è finita sul Corriere della Sera ieri. Comunque noi ne parleremo anche più tardi. Voglio andare alle informazioni sul traffico, perché poi dobbiamo parlare di questo simpatico sacerdote, cara Paola Saluzzi. Hai sentito mai parlare di Don Gino Flaim? Ti sei seguivo ieri sera la Zanzara. Ecco. Ah, perché l'hanno chiamato, ovviamente. Immagino. L'ho sentito. No. Va bene, andiamo avanti. Sì, ma tra poco lo sentiremo. Parole davvero incredibili. Un sacerdote che dice: ma la pedofilia, in pratica, fa capire che è un po' colpa dei bambini che sono in cerca di affetto. Mamma mia, dico, ma vabbè. Alessandro Milan, sei solo traffico e distintivo. Traffico e distintivo. Traffico e distintivo. Il messaggio naturalmente è per il nostro caro amato Presidente del Consiglio. Adesso il canone lo mette sulla bolletta. Mi spiega però una cosa: se mio padre la televisione ce l'ha in casa sua e paga regolarmente il canone, ma ha anche un altro contratto di luce elettrica su una casa in campagna dove la televisione non ce l'ha, per quale motivo di canone deve pagarne due? Cidibidibi, Alino Milan! Cidibidibi, Alino Milan! Sì, le dico che il governo ha pagato 11 milioni di euro per il riscatto delle due ragazze e i pensionati sono lì che vengono rapinati dei loro diritti. Alessà, ma io sono stato poco bene, ho saputo che dal prete lì che il Sanmarino si è imbucato, io pensavo dentro una buca di Roma e poi le fatture che fa, non le fa. Bucciardo, c'ha una fascia come una melanzana. Ora io non lo so se Marino abbia una faccia come una melanzana, ma Paola Saluzzi, che è di Roma, lo vedrà più spesso, ci potrà... No, mi sto interrogando su perché si dica faccia da melanzana. Ma non lo so. Non lo so, ogni volta si impara qualcosa. Ma poi dal prete sei imbucato. Dal prete. Non sono stato tanto bene, come dire, non ho sentito gli amici, no? Dice dal prete, questo è molto romano. Allora, poi, tutta questa polemica sulle due ragazze, basta. Basta. Io devo dire, allora ditelo, sì. Abbiate il coraggio, cari italiani, a dire che dovevano decapitare loro la testa e non fare oppure mettete la foto di vostro figlio al posto della foto. Ma no, ma per carità, è partito, per carità. Questo sono partite, hanno fatto una cosa. Certo, infatti, questo non giustifica il fatto che abbiano fatto una... Mettete la foto del vostro figlio al posto della foto di queste ragazze, poi date una risposta. Ma sì, ma hanno fatto una... Qualsiasi paese avrebbe fatto la stessa cosa. Forse l'America no. L'America avrebbe fatto un raid armato che costa... È vero. Notoriamente molto di più, peraltro. Sì, l'America avrebbe tentato di salvarli con un raid militare, magari sarebbero morte, magari sarebbero... costa anche di più, esatto. È la verità. Costa forse anche di più di 10 milioni di dollari. Comunque, basta questa polemica, insomma, certamente questo non vuol dire che non abbiano fatto una enorme beep. Certo. Ecco, mettiamola così. Non c'è dubbio. Alle 6:49 minuti, però che devi fare? Allora, lo sentiamo, Don Gino Flaim, che è arrivato alla soglia dei suoi 75 anni a Trento, all'inviata dell'area che tira di La Sette, di Mirta Merlino, che ha fatto? Ha detto questo. Della pedofilia posso capirlo, l'omosessualità non lo so, perché io sono fatto tanta scuola, no? I bambini li conosco e purtroppo ci sono bambini che cercano affetto perché non ce l'hanno in casa e magari si trovano qualche prete, può anche cedere, insomma. Ma voi vedete, ma io dovrei anche commentarla, no, vabbè, ma Paola Saluzzi, ma dobbiamo anche commentarla. No, ci alziamo al Museo degli Orrori e dobbiamo commentare un orrore. Commenti per chi? A chi si è mantenuto saldo con telecamera in braccio e microfono. No, ma sì, ma secondo me sei lì talmente scioccato, dici no, scusi, lei sta... Allora, adesso no, tiriamo fuori il candid camera perché è uno scherzo quello che sta dicendo. No, ma invece così. Sì, stai facendo uno scherzo e parliamo. E oggi a Repubblica, che lo intervista, ribadisce perfino per segno. Ho detto, cosa ho detto di grave? Sì, ho detto che certi bambini cercano affetto se non lo trovano in famiglia. L'ho detto e lo ribadisco. E affetto? Qui... Ma lo sa cosa voglio ma dire? Ma sì, pedofilia, ma voglio forse... dire. Ma dai, ma insomma. E dice, e qui... cascano gli educatori, cioè, capito, sono vittime dei bambini, capito, Luca Dini, sono vittime dei bambini. Colpa dei bambini. Colpa dei bambini. Per fortuna che è stato anche un professore, quindi... appunto. Non ho paura. Comunque, insomma, al di là di questo orrore... Vergogna. Sì, vergogna, ma dai, ma assumo... Ma non ha vestito alto come il colonnato di San Pietro. No, vergogna. Infatti non c'è molto da commentare, nel senso che di fronte a queste cose sono talmente scioccanti che dici, vabbè, ho capito, sarà... La dice anche un po' lunga su quanto è acerbo e scarso il dibattito interno alla Chiesa sui problemi che ci sono. Ma sul problema anche del celibato, mamma mia. Oggi proprio qui ho Vanity Fair, voi scrivete una bella storia, è una storia umana di due persone. Cosa scrivete, Luca? Una suora di Cuba che va in Guinea-Bissau, incontra lì un prete italiano, si innamorano e nasce un figlio. Per carità, è una storia, insomma, di che e continuano a fare il loro lavoro di missionari. Ma questo cosa vuoi dire? Che il celibato dei preti, secondo te la castità dei religiosi è passata, è un qualcosa che andrebbe superato? Beh, che sia contro natura non è che lo dico io, è vero. Io ritengo che sia sì, che sia un anacronismo, che ritengo anche che verrà superato in tempi non tanto lunghi. Dici? Perché è un problema ormai ingestibile anche per loro, perché non troveranno, cioè già adesso devono andare a trovare i preti nei posti più svantaggiati del mondo. E non solo, io dico, ma quanti sacerdoti secondo voi rispettano questa regola, insomma, della castità? Pochi. Ma dai, ma su, ma ma è una cosa che non... Ma appunto, tu hai detto un anacronismo, è una follia. Per carità, la dottrina della Chiesa dice così, Paola, però come... Ma è una dottrina assolutamente umana, che ha poco a che fare con il Vangelo e con... Sì, cioè, adesso quella tutte è tutta le cose la posizione... decise dagli uomini. Sì, sicuro. Sì, oddio, decise dagli uomini. Quella, tutto ciò che si fa è scritto, nel senso che si parte, però... da un testo, come si vuol dire. Sì, però è stato interpretato. È stato interpretato. Interpretato, assolutamente interpretato in questa maniera, e adesso si capirà se questa maniera sia rivisitabile. Va bene? Questo da un lato. Dall'altro, esistono delle norme che secondo me qualcuno rispetta, perché ci sono anche persone che, sicuramente soffrendo, sicuramente capendo che si sono votate ad altro, rispettano. Ripetisco, la mia non è un giudizio di merito, esattamente come deve rispettare chi, e non a caso interviene Papa Francesco, chi è divorziato e risposato, oppure divorziato e convivente, e non si reca in chiesa a fare la comunione. Cioè, anche quelle sono, se ci credi, sì, ma sono tutte tematiche che al sinodo vengono affrontate, voglio dire. Aggiungere una, che siamo in chiusura. Ma alle donne cattoliche fa piacere pensare di non poter diventare mai prete, per il semplice fatto di essere donne. C'è poi anche poi ci viene detto che non c'è nessuna diversità, nessuna superiorità o inferiorità, però più di così, scusate. Le donne prete, che poi sono appunto, perché le suore, sapete, non possono non dire sono messa. Donne prete. Non sono donne prete, non possono dire messa, giusto per dirne una. Va bene, dai, ci fermiamo qui alle 15. Guardate tutti, Paola Saluzzi, che non è. Ecco, perché alle 15, effettivamente, nella nuova sigla ti danno l'opportunità di andare in onda ancora su Sky. Per il resto, se no. Come sai, adesso ogni settimana ti posso salutare con una persona speciale. No, non l'ho sentita questa, ma dobbiamo chiudere. Me lo dirai la prossima volta. Ciao! Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potrete rifiutarvi. 24 mattino. Ebbene sì, sono le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo qui a leggere i giornali ora. Occupiamoci di quello, poi quando arriverà Oscar Giannino dalle 8:15 ci occuperemo di questa vicenda dell'Iraq, no? Avete sentito l'apertura ieri del Corriere, oggi ribadita, forse attacchiamo in Iraq con le bombe, ovviamente attacchiamo l'ISIS. E di questo tema parleremo, approfondiremo, oltre che delle altre tematiche in primo piano sui giornali. E allora andiamo a leggerli, questi quotidiani che trovate in edicola. In questo mercoledì 7 ottobre, i titoli, intanto il Sole 24 Ore apre sul presidente di Confindustria Squinzi, che dice: sui contratti il capitolo è chiuso, la rottura con i sindacati. E anche l'apertura, con un diverso taglio ovviamente editoriale, sul Manifesto, il titolo è: contratto bello, ciao, dopo la stretta sul diritto di sciopero, la Confindustria accusa i sindacati e detta la linea al governo. Questa è l'accusa del Manifesto. Ma anche Libero, mettendo soprattutto in risalto la notizia di ieri data da Repubblica sul fatto che il governo starebbe pensando a far proclamare lo sciopero solo ai sindacati, che solo se vota almeno il 30% degli iscritti al sindacato, il titolo di Libero è: ecco il piano di Renzi per spianare i sindacati, diritto di sciopero ma anche contratti, mette insieme le due cose Libero. L'attualità internazionale, il Corriere della Sera: Iraq, scontro sui raid italiani, questo è il titolo di prima pagina. Così Repubblica: attacco in Siria, scontro NATO Putin, l'Italia sui raid decide il Parlamento. La Stampa: attacco all'ISIS, i piani dell'Italia. Mentre il Fatto Quotidiano: siamo in guerra ma non si dice. Questo è il titolo principale. Sulle pensioni invece apre il giornale: pensioni, ecco tutte le ipotesi. A Avvenire, Siria, Mosca accelera, no ai raid italiani. Mentre il Messaggero, imprese, maxi taglio delle tasse, questo è il titolo di prima pagina, in previsione della legge di stabilità. Come vedete sono le tematiche internazionali ma anche sindacali interne italiane che dettano il titolo di prima pagina, e poi c'è l'ennesima puntata sulla vicenda Marino. Niente, basta, ormai il problema del sindaco di Roma pare che sia un paio di grisce e tre salti in bocca alla romana, oltre che qualche bicchiere di vino di troppo. Secondo almeno quello che scrivono i giornali, secondo quello che dice la procura che indaga, per carità è un'apertura, un'indagine, dopo che sono stati presentati esposti sulle spese ai ristoranti del sindaco di Roma. La procura indaga sulle spese di Marino, è il titolo più gettonato, il Corriere della Sera, ma anche Repubblica. Spese Marino, indagano i PM. Sant'Egidio lo smentisce, sì, perché adesso vanno tutti alla ricerca di qualcuno che secondo i documenti ufficiali avrebbe cenato con il sindaco di Roma e che però smentisce, come per esempio scrive il Corriere, Don Modena che ha partecipato a una serata a presentare un libro con Marino ad Alessandria, ma poi risulta avere cenato con lo stesso Marino alle 23:44 a Torino al ristorante Tre Galli, data di emissione della fattura, scrive il Corriere della Sera. Don Modena dice: non ricordo assolutamente, ricordo la presentazione del libro, ma io sono rimasto ad Alessandria, non sono certo andato a Torino dove risulta questa fattura di ristorante e c'è scritto che avrei cenato io con Ignazio Marino e Ale. Repubblica invece va a sentire il ristoratore da cui Marino pranzò, Lorenzo D'Albergo, lo intervista, pagina 11, il 27 luglio 2013, era qui con la moglie, come no? Marino è venuto una sola volta e con la moglie, altro che cena di lavoro, e si esibisce la fattura €138. Cioè, adesso io capisco tutto, politicamente le accuse, ma cioè stiamo andando a vedere la fattura di €138 del 27 luglio 2013, cioè di due anni fa e mezzo, andando a intervistare il ristoratore che dice sì, mi ricordo, era qui solo con la moglie. Ah, risulta una fattura per una cena di lavoro. No, era con la moglie. Ah, va bene, non lo so se chiamarlo accanimento, ma vedete voi, nel mio ristorante è venuto con la moglie, altro che cena di lavoro, me lo ricordo quel 27 luglio del 2013, era lì seduto a quel tavolo con la moglie. Anche Libero, la procura apre un fascicolo su Marino Spendaccione, niente, la gricia e i salti in bocca alla romana, questo è quello che farà crollare probabilmente il sindaco di Roma, che denuncia tutti, così annuncia. Ah, e annuncia anche su chi, in un'intervista a chi, nel 2023, perché sapete che ha in mente questa cosa che verrà rieletto sindaco di Roma, no? Quindi farà due mandati. Nel 2023, annuncia Ignazio Marino, andrò a vivere a Sydney. Non chiedetemi di approfondire ulteriormente la questione, prendetela come un atto di fede, il perché Sydney. Allora, invece, questo sì che è un qualcosa che abbiamo fatto sentire, l'avete sentito anche nel giornale radio, è davvero sconvolgente, riguarda questo sacerdote, o meglio si potrebbe dire ex sacerdote, visto che è stato subito sospeso dalla curia, Don Gino Flaim, che tra l'altro è stato collaboratore pastorale a Trento sul tema della pedofilia. E all'inviato del programma della 7 L'Aria che Tira ha fatto questa dichiarazione sulla pedofilia, dicendo che alcuni bambini, non avendo affetto a casa, cercano l'affetto e qualche educatore purtroppo cade in tentazione la pedofilia, cioè ha detto che è colpa dei bambini. Io, vi rendete conto, i titoli ovviamente sui giornali ci sono ovunque, la pedofilia io posso capirla, questo prete, l'omosessualità no, ma la pedofilia sì, perché alcuni bambini non hanno l'affetto a casa e lo cercano fuori casa. Vi rendete conto che cosa ci tocca sentir dire nel 2015? E lo ribadisce, intervistato da Andrea Selva su Repubblica, Don Gino Flaim dice: ma che ho detto di tanto grave? Eccolo qui, esordisce così. Ma io non mi sono neanche reso conto. Ah, beh, questo è un gran classico. L'intervista mia insaputa. Lo dice proprio così. Si sono presentati alla porta gli inviati, non mi hanno neanche messo il microfono. Ho detto poche parole. Se ho detto qualcosa di grave, l'ho detto senza saperlo. Senza saperlo. E poi ribadisce. Beh, certo, ho detto che capisco i preti pedofili. Non che li giustifico, eh. È molto diverso. Perché è vero, ci sono certi bambini che cercano affetto e se non lo trovano in famiglia lo trovano altrove. L'ho detto e lo ribadisco. È qui che cascano gli educatori, c'entra con tutti, non solo con i preti. Se gli educatori non sono come si deve, sono i primi pedofili. Con alcuni bambini gli educatori sono i primi che ci cascano, ma non li giustifico. E comunque ribadisce in questa intervista a Repubblica. Sono i bambini che cercano affetto, l'ho detto e lo ribadisco. E poi dice, vabbè, verrò sospeso, andrò a dire messa al bar. Ecco, magari con qualche cicchettino in più, caro Don Gino Flaim, religioso al centro delle polemiche, scrive Repubblica. Al centro delle polemiche c'è anche l'Arabia Saudita, me ne sono occupato, vi ricordate settimana scorsa, per questa condanna a morte nei confronti di un 17enne Ali al-Nimr. C'è ancora la campagna Free Nimr che gira su Twitter. L'Unità ancora oggi in prima pagina mette la faccia di questo ragazzo di 17 anni condannato a morte in Arabia Saudita, dovrà essere crocifisso. Perché dico la notizia è tornata alla ribalta? Perché il Salone del Libro di Torino, dove l'Arabia Saudita era il paese d'onore, è stata tolta da questo ruolo. L'Arabia Saudita, Torino dice no all'Arabia Saudita, non invitiamo culture di regime. Questo hanno deciso, a mio modo di vedere, anche se in maniera scomoda, questo può comportare qualche problema diplomatico, ci passeremo sopra, hanno fatto benissimo. E l'articolo che mi fa tenere le mani sul volante, l'articolo che mi fa pensare di questa giornata riguarda l'Unità proprio, ed è pubblicato con la firma dell'ambasciatore dell'Arabia Saudita in Italia, Rayed Krimli, molto arrabbiato, molto offeso per quella che definisce un'ingerenza in affari interni sauditi. Il cittadino al-Nimr è colpevole di 14 reati, che verrebbe da dire potrebbe averne commessi anche 400, ma aveva 17 anni e soprattutto la crocifissione. Ma sorvoliamo su questo, sentite cosa scrive l'ambasciatore dell'Arabia Saudita con una penna che potete immaginare molto piccata. Amici miei, l'epoca dell'imperialismo europeo si è da tempo conclusa. Gli scambi di mutuo beneficio non si fondano sul principio che una parte detti all'altra come svolgere le proprie attività. Non confondete il dialogo con il monologo. Le nostre leggi, le nostre istituzioni politiche e giudiziarie, le nostre politiche sono in fase di modernizzazione in base a ritmo e modalità in linea con i bisogni e le esigenze della nostra gente. Essi non sono concepiti per soddisfare i più recenti capricci degli altri. A voi possono non piacere alcuni aspetti dei nostri valori o della nostra cultura o delle nostre leggi, ma questi appartengono a noi e non a voi. Come dire, fatevi i fatti vostri. Ecco, invece, la campagna per tentare di salvare anche solo una persona continua in maniera, secondo me, giusta e niente. E l'Arabia Saudita non è gradita al Salone di Torino. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Uè, Alessandro Milan, da Viaggia Notizie. Ma chi sei? Ti mando un grosso abbraccio comunque, eh? Un abbraccio così di costrizione, di affetto, perché... perché così, insomma, tipo camicia di forza. No, nel senso, caro amico, ti voglio bene, così come tutti coloro che mi mandano allo 0246524492 le sigle. È la nostra segreteria telefonica, mandateli. Allora, come detto, ieri il Corriere della Sera ha anticipato questa vicenda che evidentemente non doveva uscire sui giornali, ma è uscita sui giornali, cioè il fatto che l'Italia bombarderà in Iraq le postazioni dell'ISIS. Partecipa già alla coalizione internazionale anti-ISIS con alcuni aerei, ma lo scatto in più sarebbe dato dal fatto che ora probabilmente andremo a bombardare. La difesa smentisce, il ministro Pinotti smentisce, dice prima ci vuole un vaglio parlamentare, perché subito è nata la polemica politica a dire ma come si va a bombardare senza passare prima da un voto del Parlamento, c'è tutto il dibattito, l'Italia ripudia la guerra come scritto in Costituzione, invece siamo in guerra, e la solita manfrina all'italiana in questi casi. Comunque Marco Galluzzo sul Corriere della Sera, pagina 3, racconta lo scatto in avanti in Iraq. Il governo cerca un ruolo per una svolta in Libia. L'uscita della notizia ha complicato le cose, scrive il Corriere. Chi lavora col Premier la mette in questo modo. La cosa non era stata ancora discussa col Quirinale e negoziata in modo adeguato con gli alleati. Ovviamente è scattata anche una sorta di indagine per verificare la falla nel sistema informativo dell'esecutivo. Di sicuro Renzi ha ben chiaro che in questo momento, come dice lui, l'opinione pubblica è contraria a un tipo di svolta di questo tipo. Poi c'è l'aspetto finanziario da non sottovalutare. Questo nostro upgrading in Iraq richiederebbe finanziamenti adeguati e sicuramente non ridotti, cosa che andrebbe fissata nell'imminente legge di stabilità. Certo che però Renzi si muove in modo cauto, ma sta indubbiamente cercando un rafforzamento del nostro peso diplomatico, soprattutto dopo l'incontro alle Nazioni Unite di settimana scorsa. Io infatti l'ho buttata lì su Twitter. Non vorrei, dico io e chiedo io, che si vada a buttare due o tre bombette per diventare un po' più importante a livello internazionale e magari giocarsi così la partita per avere un seggio nel Consiglio di Sicurezza, seggio non permanente nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Non vorrei che fosse solo per un'acquisizione di potere diplomatico a livello internazionale, ma questo dubbio nel retroscena di Alberto D'Argenio a pagina 2 di Repubblica un po' c'è. Palazzo Chigi non può dire di no all'azione militare chiesta dagli alleati. Questo è il titolo dell'articolo. 29 settembre, New York. Matteo Renzi e Barack Obama si appartano nel cuore del Palazzo di Vetro. Hanno appena partecipato alla riunione a margine dell'Assemblea delle Nazioni Unite dedicata al terrorismo. Ed è in quel momento che il Presidente degli Stati Uniti avanza al capo del governo due richieste. La prima, mantenere il contingente italiano in Afghanistan. La seconda, alzare il livello della presenza italiana in Iraq, dando ordine ai nostri quattro Tornado in Kuwait di bombardare le postazioni del califfo. Il Premier prende nota. Pubblicamente, nei giorni successivi, si limiterà a confermare la disponibilità italiana a restare a Kabul. Questo sarebbe successo, secondo Repubblica, dunque un faccia a faccia con Obama che ha chiesto direttamente a Renzi di fare ciò. E Roma, scrive Repubblica, sta combattendo una battaglia diplomatica per non essere esclusa dal nuovo team di mediatori in Libia che è in preparazione. Ecco allora che si sospetta che l'idea sia questa: rispondere in qualche modo a una richiesta esplicita americana per poter poi acquisire forza diplomatica su altri fronti come il fronte libico. Va bene, intanto siamo in guerra, non siamo in guerra. Il Presidente della Repubblica Mattarella, che è stato intervistato dall'agenzia di Mosca TASS, ha detto no ad azioni unilaterali. Si riferiva probabilmente soprattutto più alla Russia, all'intervento della Russia in Siria, ma certo, secondo il Messaggero, i paletti di Mattarella ai raid anti-ISIS. Questo è il titolo di pagina 7. Ne discuteremo dalle 8:15, cari ascoltatori, di questa vicenda ne discuteremo certamente. Mentre c'è da dire che se vogliamo andare, c'è sempre la polemica invece di Vanessa e Greta, basta, cioè non se ne può più, a mio modo di vedere, di questa polemica di Vanessa e Greta rapite in Siria. Forse l'articolo più interessante è un po' di colore che trovate sul Giornale a pagina 2. È una vicenda così collaterale ma interessante. Il papà di Vanessa Marzullo, una delle due rapite, ha un locale, forse lo sapete già, una trattoria in provincia di Bergamo. Ebbene, sappiate che questa trattoria, dopo il rapimento, ha avuto un fatturato raddoppiato. Il fatturato alla cascina Bolsa di Verdello in provincia di Bergamo, così adesso prenderete anche voi nota e andrete lì a mangiare per cercare di vedere Vanessa, i ricavi sono passati da 132.000 a 213.000 euro in un anno, non raddoppiati ma più o meno così, diciamo un 80% in più. Dai, fatela la battuta, vedete come conviene essere rapiti. Dai, fatela. L'avete fatta? Ok, possiamo allora andare avanti. Il fronte italiano, beh certo, la questione dei contratti è una questione che prende banco sui giornali, perché sui contratti il capitolo è chiuso. Così ha detto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, dopo aver incontrato a Milano le 40 associazioni di categorie per il rinnovo contrattuale che ci sarà nei prossimi mesi. Sono diverse categorie, la presa di posizione è molto dura, dicendo da parte di Squinzi i sindacati ci stanno prendendo a schiaffoni da mesi, rinunciano a tutte le nostre aperture, ne prendiamo atto e dunque capitolo chiuso. Questo certamente aumenterà la tensione nei rapporti tra imprenditori e sindacati. Tra l'altro, nel giorno in cui raccontava ieri Repubblica, c'è questo piano del governo che è quello di far garantire lo sciopero soprattutto nei pubblici servizi. Se non c'è il via libera del 30% degli iscritti, lo sciopero non potrà essere proclamato. Questa è una cosa allo studio della riforma degli scioperi, non è un qualcosa che è già arrivato. Mette insieme le due cose, libero che la legge, così è il piano del premier per spianare i sindacati, cioè in qualche modo togliere peso ai sindacati. Questo è il titolo di prima pagina di Libera, cioè anche il commento del direttore Maurizio Belpietro, che tra l'altro sposa la linea Renzi, dice: tra tante cose che sbaglia Renzi, qualche cosa giusta la sta facendo. Una è proprio il piano per limare le unghie al sindacato. Questo è la posizione di Libero. Come detto invece sul Manifesto, la posizione è ben diversa, e c'è questa foto di lavoratori che tengono in mano la parola contratto e il titolo è "Bello ciao", e cioè insomma con questo stop il Manifesto dice Confindustria detta la linea al governo. C'è anche un'intervista a Landini, segretario della FIOM, intervistato da Antonio Sciotto a pagina 3 del Manifesto. Dice: il governo vuol fare una legge sul salario minimo, regoli finalmente la rappresentanza, renda legali i minimi fissati dai contratti nazionali, in quel caso saremo d'accordo. Così dice Landini, che critica ovviamente questa chiusura da parte di Confindustria. Ma insomma, è in arrivo, questa è un'espressione mai utilizzata, non so, forse Mauro Meazza non l'ha mai sentita, l'autunno caldo delle relazioni sindacali. Che dice? Nuova questa, potremmo coniarla. Caro Alessandro, buongiorno. Dove sei, in cantina oggi, Mauro? Non lo so, questo strano ritorno vocale. Sì, praticamente non ti si sente niente, si capisce una parola su 10 di quelle che dici. Allora, vediamo se riusciamo a migliorare, no? No, Mauro, aspetta, metti giù che ti richiamiamo. Facciamo questa cosa, tu metti giù, non ti preoccupare, butta, facciamo come Magalli in Rai, butti giù signora, che poi la richiamiamo e vediamo se il collegamento è migliore. Ma lei mi sente? Da dove chiama Meazza? Sei forse nello spogliatoio dell'Inter? È il tempo, sto prendendo tempo chiaramente in diretta per far rifare il numero al nostro Lorenzo Nespoli, il numero di Mauro Meazza, che è 040404. Mauro? Veramente noi era 14. Oh, vedi che si sente benissimo. Non vorrei adesso sindacare, visto che parlavamo di sindacati. No, autunno caldo, caro, purtroppo era un'espressione che io ho fatto in tempo già a sentire. Ah, tu sì? No, perché sei molto giovane, ma io ho già fatto in tempo a sentirla. Però leggi solo il 24 di oggi per tanti motivi, tra cui il fatto che puoi apprendere che il governo intende convocare comunque le parti, però dopo la manovra, dopo il varo della legge di stabilità, quindi bisognerà aspettare almeno dal 15 ottobre in avanti. Ma ci sono tanti motivi, te li dico in rapida successione oggi per leggere solo le 24 ore, innanzitutto perché finalmente i tuoi due orini potresti mobilitarli per comprare una casa. Oh. Magari non a 2 euro, però da qualche parte bisogna pur cominciare, perché oggi diamo con il Sole 24 Ore un supplemento, un focus di 16 pagine, proprio comprare e vendere casa. Il momento sembra più propizio che non altri. E poi tra i motivi dovresti anche meditare sulla decisione della Corte di Giustizia Europea. E come no? La quale ha detto sostanzialmente: cari statunitensi, non potete fare carne di porco dei dati. Hanno accolto, credo, un ricorso di un giovane austriaco, Max Schrems, sarà l'idolo già di qualcuno. Trovi tutto in dettaglio nelle prime pagine iniziali del Sole 24 Ore, anche con quanto valgono i nostri dati, caro Alessandro, che è qualcosa su cui sempre meditare. E poi devi sapere che la Finlandia ha abolito la tassa sui dolci. Tu dici: e chi se ne... No, oh, interessante questa. La Finlandia molte nostre aziende. Aspetta, annunciamolo bene: la Finlandia ha abolito la tassa sui dolci. Il problema è che queste tasse, come anche quella danese, come anche i semafori cosiddetti, le etichette inglesi, poi alla fine sono dei meccanismi per impedire, per ostacolare magari la vendita di prodotti, guarda caso spesso italiani, sai che noi sull'alimentare siamo abbastanza sensibili. E poi ti voglio dire che sta arrivando il primo voto del primo ramo per il disegno di legge sulla concorrenza. Oh. Con quello scoprirai, leggendo il Sole 24 Ore, arriverà la possibilità per gli alberghi di fare sconti addirittura più elevati rispetto agli intermediari online. È vero. E poi molte altre cose per i professionisti, per la RC Auto. È molto interessante per tutti i consumatori, diciamo. Medita attentamente e leggi, come sempre, religiosamente, le pagine di norme e tributi. Oggi parliamo del tax ruling, te la lascio lì, poi te la spiego domani, non c'è più tempo, del tax ruling, su cui i 28 dell'Unione Europea hanno trovato un accordo per scambiarsi i dati, appunto, su questi tax rulings. Ho usato anche il plurale. È bello, bello. Traffico! Alessandro Milan, il me piace perché il melesi giornale che mi dà sola, me stufo. Oh, che bello, che bello. Faccio un servizio utile. Lei stia lì comoda, cara signora, in macchina, che i giornali glieli leggo io. Una parte dei giornali. Per esempio, questa notizia: lei ha figli, cara signora? Non lo so, non mi può rispondere in questo momento. Ha figli piccoli? Magari li mette davanti alla TV e si rimbecilliscono come i miei quando guardano la pubblicità così. Ecco, dovevate immaginare me con la bocca aperta a vedere la pubblicità. E allora io plaudo all'iniziativa, alla notizia che leggo su Repubblica, che riguarda il direttore generale della RAI, Antonio Campo Dall'Orto, che avrebbe in mente questa, secondo me, una rivoluzione straordinaria. Via la pubblicità dalle reti dei bimbi. Ah, che bello sarebbe il piano di Campo Dall'Orto. Una persona, tra l'altro, scrive Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, che ha lavorato per 20 anni nelle TV commerciali, quindi sa capire benissimo qual è il potere economico per un'azienda della pubblicità. Starebbe studiando di togliere, soprattutto dal canale Rai Yo-Yo, quindi il canale per bambini, la pubblicità, per toglierla dai visi inebetiti a volte quando passa la pubblicità dei bambini. La vuol togliere anche dalle reti culturali, la storia Rai 5. È già stata fatta la verifica di costi, cioè di quanto si perderebbe dal punto di vista della Rai azienda, ma via gli spot dalla rete dei bimbi. Io sono assolutamente, cioè, spero che accada assolutamente. Certo, è facile dirlo, si perdono dei soldi, ma insomma è servizio pubblico, speriamo. Lo scrive Repubblica. Mentre invece questa cosa mi inquieta, riguarda sempre i bambini, anche più piccoli, e mi inquieta davvero, è l'apertura del giorno, da un po' di tempo se ne parla, è il fatto, denuncia al giorno, che sempre più persone evitano di vaccinare i bambini. Fuga dai vaccini, questo è il titolo di prima pagina del giorno. È in crisi la prevenzione sui bambini. Vaccinazione in picchiata, l'allarme dei medici in questa inchiesta, pagina 12 e 13, è siamo al limite della soglia di sicurezza perché tornano malattie come il morbillo e la pertosse. Alessandro Malpelo racconta appunto l'allarme lanciato dai medici che col calo delle vaccinazioni osservate dicono siamo al limite della soglia di sicurezza, è necessario varare con urgenza il nuovo piano nazionale di prevenzione riunendo al tavolo le regioni. E sempre più genitori, spesso anche perché bombardati da informazioni false, non vaccinano i bambini. Intanto scusate, ma c'è una zanzara, è ufficiale, l'ho uccisa. Dopo facciamo vedere su Periscope in diretta. Gli animalisti non me ne vogliano, ma insomma mi ha già punto tre volte. E questo in diretta succede. È Radio Verità, cari ascoltatori, non vi arrabbiate. Comunque, a parte questo, altra notizia di cronaca che ho trovato, vediamo tra le tante rimaste, è questa: scuola stoppa le festicciole per evitare discriminazioni. Succede, racconta La Stampa, pagina 16, con Valentina Roberto, a Santià, in provincia di Vercelli, dove una preside ha detto sono vietate le feste a scuola e udite, il motivo è questo. Perché non di rado si vedono situazioni in cui alcuni bambini possono portare pasticcini e torte, mentre altri non hanno la disponibilità economica per farlo. E va bene. E allora stop alle festicciole per evitare discriminazioni. Viva il comunismo scolastico, con tutti uniformati, perché se uno porta il pasticcino anche l'altro deve portarlo. Ovviamente è ironia la mia, ma la follia purtroppo si sparge un po' dovunque. Vi segnalo, lo segnalo anche su Periscope, questa è la zanzara morta, puoi farla vedere su Periscope, effettivamente c'è. Ma segnalo anche su Periscope la nuova vita di D'Alema, mezza pagina del Messaggero. Si dedica al tartufo, è l'ambasciatore del tartufo nel mondo, Massimo D'Alema, dice lo porterò all'UNESCO e dice personalmente credo che l'abbinamento migliore del tartufo sia con l'uovo, senza disdegnare però una buona tagliatella. È l'articolo di Mario Aiello ed è tutto vero ed è mezza pagina sul Messaggero. Ma non è questo l'articolo che vince la carta costa. L'articolo che vince la carta costa oggi potrebbe vincere la carta costa mondiale, potrebbe vincere la carta costa dell'anno, ma almeno del quinto. Il titolo è questo, perdonatemi, ma io lo devo leggere così. Una pagina di Libero, telefonare col culo. Questo è il titolo, è il dramma dell'aumento di chiamate, soprattutto in America, al 911, cioè la polizia, di chi si mette il telefonino nella schiena, nei pantaloni, nella tasca dietro e partono involontariamente le chiamate. Ecco, occhio alle chiamate involontarie, occhio a telefonare col culo! Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Ladies and Gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Questi politici bisogna attaccarli alla radro e a guidare la radro, sai che ci mettiamo Giannino ingazzato con una frusta a nove code. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino, attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Eccoci qui, oggi si festeggia la Beata Vergine del Rosario, quindi dovremmo dire sì. Il Rosario, no? Non lo diciamo. Oh, mamma mia, no, va bene. Questo per ogni 7 ottobre, un saluto a tutti quanti, hai ucciso la zanzara. Qui è pieno di messaggi, ma che hai fatto? È vero, c'era una zanzara durante la segna stampa, ho fatto ma così. Ma qui tutti hanno equivocato, Alessandro, andiamoci piano, per favore. Sì, c'è chi dice ha ucciso la zanzara sbagliata. No, basta equivoci. Nostro amico Giuseppe Crociani. anni. Andiamo al punto. Al punto, al punto. Allora, caro Oscar, hai visto che ho una domanda da farti. Non è che buttiamo due bombine in Iraq, come ho detto io, perché dobbiamo acquisire un posto all'ONU? Cioè, abbiamo questo, come spiegano praticamente tutti i giornali italiani, non c'è un equivoco su questo. C'è questa questione, c'è una richiesta che viene dall'Iraq e dagli America, ma c'è anche una grande ambizione italiana di farsi dare il ruolo del comando in questa missione in Libia, sì. Se in Libia si fa questo accordo che Tripoli, e noi a quel punto assumiamo il comando, il coordinamento militare di questa situazione. E quindi dobbiamo buttare è una delle cosa bombe politica, per questo. Ovviamente. Cioè... E ieri chi l'ha fatto uscire sul Corriere è stata una voce profonda che non vuole che avvenga tutto questo. Arrabbiatura degli americani, come scrive Repubblica, arrabbiatura di Palazzo Chigi che si è trovato naturalmente a dover gestire una cosa a cui Mattarella gli ha dovuto dire ieri: no, tu rispetti le regole. Comunque, insomma, il tema è questo, cari italiani. 800 24 00 24, uno dei temi. Siamo in guerra, perché poi adesso c'è questa cosa in Italia, non si può dire questa parola, la guerra. Beh, l'Italia ripudia la guerra, la Costituzione, per carità, è importante. Beh, per cui forse il Fatto Quotidiano che dice siamo in guerra ma non si può dire ha ragione. Siamo sempre così, noi andiamo con gli altri. Beh, ma le bombe le mandano gli altri. Lunghi decenni di questa storia, non se ne esce in Italia da questa ipocrisia. Deve finire, a me piace sottolineare il fatto che Repubblica oggi c'ha un commento editoriale di Lucio Caracciolo, Repubblica, in cui dice testualmente: in realtà solo una missione militare di terra, stivali per terra, con gli americani in Siria risolverebbe il problema. Questo scrive Repubblica. Repubblica, certo, non un giornale considerato tranne il fatto guerra fondaria. Che se poi avvenisse, Repubblica farebbe paginate dicendo: orrore, c'è una grande confusione nelle teste degli occidentali, anche della stampa italiana. Il tema è andare lì con un nuovo intervento militare, andare appunto boots on the ground, cioè con gli stivali sul terreno, per stanare quelli dell'ISIS. È un grande dibattito sul quale i nostri ascoltatori possono dire qualcosa. Però sai che ha anche parlato Renzi su questo? Sì. No, ma in realtà no, è il Crozza Renzi. No, sentilo no, ieri. Vabbè, ma perché? Italiani di cielo, di terra e di mare, il momento delle decisioni irrevocabili è giunto. L'Italia bombarderà Rai 3. Rai 3. E vabbè, caro Oscar, no, comunque il tema c'è: che fare? Andare a bombardare e farlo per acquisire poi in quale sfida diplomatica peso? Soprattutto quella che riguarda l'ipotetica messa in ordine del caos libico, che è il vero problema da cui, come è noto, derivano il 90% degli sbarchi in Italia. E che è la vera questione su cui l'Occidente, dopo averla determinata per via dell'intervento franco-britannico eccetera, si è dimenticata, l'ha lasciata lì, ed è la questione che ovviamente all'Italia interessa di più. Quindi bisogna vedere se Bernardino León, l'inviato delle Nazioni Unite, riesce a fare questo accordo tra le diverse fazioni di Tripoli e Tobruk, e a quel punto c'è un mandato delle Nazioni Unite e dovrebbe essere affidato come coordinamento a noi. Questa è la vera partita italiana. Quindi vogliamo giocare questa partita, cioè prendere un coordinamento sulla Libia, paese che dopo la sciagurata campagna di Sarkozy, ha portato a un paese devastato. Abbiamo portato gli Emirati dell'IS alle nostre coste, praticamente dall'altra parte del Mediterraneo. E dalle nostre coste, e da quelle coste partono gran parte di quei migranti che poi non vogliamo, perché non li vogliamo, e però partono da lì perché il controllo è nullo. Comunque di questo sicuramente parleremo. Abbiamo anche degli ospiti che sono, dopo la pubblicità, Domenico Quirico, inviato della Stampa, che è stato rapito in Siria, ricordiamo quella vicenda, e il senatore Nicola Latorre, che è presidente della Commissione Difesa a Palazzo Chigi. A cui chiederemo evidentemente che a punto sta questo imbarazzo del governo. A proposito di guerre, tra virgolette, sì, posso segnalare un bellissimo scoop di Repubblica oggi, come a pagina 26, che viene in possesso dei verbali che testimoniano come, dopo lo scandalo Volkswagen, nella Commissione Europea, il rappresentante dell'Italia dice a brutto muso ai tedeschi: sentite, noi ci siamo rotti le scatole di dover sugli standard tecnici piegarci alle ragioni della Germania. Allora, è annegato a pagina 26 in pagina dell'economia: Roma vuole la svolta, basta regole UE dettate da Berlino. Però è una notizietta di questa che ci fa capire, dallo scandalo Volkswagen, come funziona l'Europa. Che ci sia da qualche parte una reazione italiana non mi dispiace, cioè un bel colpo di giornalismo da questo punto di vista. Allora, caro Oscar, vabbè, noi abbiamo parlato da giorni del canone della Rai, sai che continuano a a chiamarci, ma tra poco magari ne parleremo, perché il mio Oscar lo devo dare a qualcuno che ti farà ti tu hai farà, visto che lei nel distatto ieri ha detto al governo non si può ma fare. Ma certo, ma infatti ma questa cosa del cane sei contento No, scusa, sono contento. L'hai pagato nel frattempo? Beh, senti, abbi pazienza. No, io mi informo. Guarda, se io tu vuoi fare l'esattore delle tasse, ma vai nella 24 ore che il sole fa con l'agenzia delle entrate. A cui io non partecipo per una scelta come ovvio. Io non partecipo. Mi informavo. Comunque, un altro grande tema è quello del sinodo. Ma com'è possibile, caro Oscar, che non passa giorno senza che non ci sia una pena per la Chiesa? Diciamo così. Perché gli uomini di Chiesa sono uomini, sono imperfetti, e capita che qualcuno di loro, come quel sbaglia, prete questo, trentino, dice sta. Capisco la pedofilia. No, ma vogliamo sentirlo? Capisco la pedofilia perché i bambini cercano affetto. Don Gino Flaim, sentitelo. La pedofilia posso capirlo, l'omosessualità non lo so, posso, i bambini capirla. Li conosco, e purtroppo ci sono bambini che cercano affetto perché non ce l'hanno in casa, e magari si trovano qualche prete, può anche cedere, insomma. Ma e tra l'altro oggi lo ribadisce a Repubblica, dice: ma cosa ho detto di male? I bambini cercano affetto, alcuni, non sto giustificando i pedofili, ma succede, ma cioè è colpa dei bambini la pedofilia. Ma guarda, ma che orrore, delle due lune, che orrore. O ha un problema lui o non è proprio capace di esprimersi, non so come dire. Metto la seconda in subordinata, perché che un prete, che un prete su questi temi lo pensi veramente quello che dice, esatto, perché che un prete su questi temi non si sappia esprimere, da certo fa un po' colpire. A questo proposito, bella l'intervista sul Fatto Quotidiano, interessante, pagina 10, di Monsignor Mogavero, che è il vescovo di Mazzara del Vallo, è un vescovo molto progressista, io talvolta non sono d'accordo con lui, però è un'intervista da leggere, vi leggo solo il titolo: il celibato può cadere e i gay bisogna accoglierli. È una delle voci nel sinodo che sicuramente non è allineata con gli 11 cardinali, infatti, che dicono: caro Papa, non ci rompere le scatole. Per la verità, poi Oscar, noi non siamo uomini di Chiesa, ma questa storia del celibato, quindi è facile per noi parlarne in maniera laica, ma questa storia del celibato per i preti, effettivamente, ma è un qualcosa di... Oh, come lo definiamo? Anacronistico, qualcosa che... Lo so, la Chiesa c'ha delle cose che non cambiano nel tempo. Come è noto, il celibato venne nei secoli successivi, cioè non è una prescrizione magica. Tutta la Chiesa gerarchica viene da San Paolo e da chi l'ha fatta, non viene dalle parole pronunciate e riportate come attribuite a Gesù nei Vangeli. Quindi è ovvio che è un tema, io non credo che la Chiesa potrà su questo facilmente cambiare. Però detto tutto questo, ci sono delle voci nei giornali italiani, diciamolo, però come il sinodo dopo Ciaramsa scende verso pagina 15. Sì, è vero. D'altronde ma anche questa storia di Ciaramsa però è un po' uscita di scena, ha fatto un grande colpo mediatico, poi non se n'è parlato molto. Però certamente, come definire, insomma, derubrichiamo la storia di questo Don Gino Flaim, di cui non conoscevamo la storia fino all'altro ieri, e non la conosceremo da domani. E non la conosceremo da domani, perché sì. Come dire, rientra più nella categoria pazzia. Oh, sai che a Roma, caro Oscar, c'è una persona che ha un po' di problemi con il cibo, diciamo così, o con qualche... Ma non è Marino. Non è solo Marino. Non è solo Marino. T'ha colpito sta cosa che ho letto in rassegna stampa di D'Alema? Ma colpito perché l'idea di D'Alema, che rilascia queste compunte dichiarazioni molto pensose sulla sua intenzione di portare il tartufo all'UNESCO, e dice che il suo abbinamento ideale è con l'uovo, ma non disdegnando le tagliatelle. Ecco, questo è mi l'ambasciatore del tartufo. Che problema ma c'è? Ma è tartufo di Molière, lui, però. Cioè, questa è la cosa che secondo me. Senti, al di là di questi scherzi, qua coi sindacati si è rotta la trattativa per il rinnovo dei contratti. Quindi, da questo punto di vista, oltre a segnalare, c'è un fondo di un certo Oscar Genio sul Messaggero, lo butto lì. Chi è Oscar Genio? No, è un mio omonimo. Ah, ecco. Però diciamo che. Molto bello secondo me il commento di Dario De Vico commentando le parole di Landini, che subito si è precipitato a dire: sono pronto a occupare le fabbriche, a fare come a Parigi, e quindi Dario De Vico lo sfotte un po', perché dice sì, certo, le occupazioni delle fabbriche in favore di Camera, che è diventata una delle cose, siccome Landini è un protagonista di questo. La realtà è che milioni di italiani si trovano adesso a non avere facilmente il rinnovo dei contratti, perché diciamolo, è un po' dura dirla così, ma hanno avuto più soldi dell'inflazione. Naturalmente non possiamo chiedere di soldi indietro, sì, però bisogna cambiare il modo in cui si fanno i contratti, facendo i contratti di produttività, e i sindacati non ne vogliono sentire parlare, e questo significa che non hanno capito che la produttività è uno dei problemi fondamentali del paese. Quindi guarda, è un tema molto più importante di quello che si capisce dai giornali, secondo me. E allora caro Oscar, qui è il momento, intanto ricordo il numero per intervenire, se volete 800 24 00 24, c'è anche il numero per gli sms 349 238 6666. Come sempre buttiamo lì sul tavolo vari temi, sul tavolo su cui ma tu ci credi per esempio a quello che dice il Corriere, che il governo taglia 1000 poltrone nel partecipate locali? Ma guarda, a me è scappata una risata omerica. Bisogna sempre prenderli questi come atti di fede, come dire Renzi taglieremo le tasse, che devi fare? Un atto di fede, crediamo, vediamo, vedremo e attenderemo, come no, non tu non ci credi. No, che vuoi che ti dica, dopo tanti anni ogni volta poi le devono chiudere, vendere, a me le cose delle poltrone in meno, che poi non diventano mai poltrone in meno, come alla Rai, tue amichette della Rai, che tornano a pagarsi sopra i 240.000 euro mentre battono cassa e costringeranno mio figlio ad avere la candela invece della corrente allora, elettrica. Allora, visto che mi hai provocato dicendo gli amichetti della Rai, ma visto che mi hai provocato, oggi voglio dare un Oscar particolare, l'ho letto già in rassegna stampa, ma... And the Oscar goes to... Ebbene sì. Bene sì, il mio Oscar, che non riguarda il canone della Rai, che non riguarda i suoi emolumenti, pare possano arrivare a 600.000 euro, qualcuno ha detto. Troppo pochi secondo te, tantissimo, va al direttore generale della Rai. Hai capito, e non sono tuoi amichetti, ma proprio siamo a questo, ma in vero conto. Fammi dare la motivazione come in tutti gli Oscar. Campo Dall'Orto ha detto, e io ho due bambini che guardano rimbecilliti a volte la TV Rai Yo-Yo, che nel canale dei bambini toglierà la pubblicità. Solo su quella, capisci? No, forse anche su Rai Storia, perché, Rai Cultura, ma perché se ne secondo frega, te quelli, il bombardamento nelle reti per i grandi, quelli li diamo per ricoglioniti, quello deve continuare? No, vabbè, ho capito, lui agisce per la Rai, lui agisce per la Rai. Se toglie da Rai Yo-Yo la pubblicità che rincoglionisce i bambini, e uno non è che può star lì a guardare, non so, Peppa Pig appena c'è la pubblicità gira. Regia, mi chiamate napoletano, perché qui io ho sbagliato, questo è un ospite di Radio Rai, evidentemente. No, sono ospite di Radio Rai. No, assolutamente no, sei a Radio 24. Oh, per me è una buona cosa se lo fa. Se toglie la pubblicità da Rai Yo-Yo, per il resto critichiamo. Ripeto, Spagna, Olanda, cioè tutti i paesi in cui hanno voluto la pubblicità non c'è il canone. Altri paesi vogliono il canone, Gran Bretagna non c'è la pubblicità. Tutti accontenti della michetta di pane che levano la pubblicità ai nostri bambini. E hai ragione. Datemi una brioche. Però il problema è che ci vuole una scelta di fondo. Invece il signor Dall'Orto, che guadagna 600 rotti mila euro. Sì, poverino, è uno scandalo. Facciamo la colletta. Il mio Oscar invece va, anche questo è un tema di quelli che secondo te sono un po' tecnici, eccetera, ma io sono per una missione educativa dell'informazione. Basta cialtronerie del colore. Quindi io propongo il commento sulla stampa di Massimo Russo in prima pagina per questa sentenza ridicola della Corte Europea di ieri contro Facebook. Pensate che l'Europa pensa, i giudici europei pensano che nella rete, la rete che è questa meravigliosa cosa che unisce tutto il mondo, ciascuno dovrebbe tenere i propri dati nel paese di appartenenza. Ma come, abbiamo fatto internet apposta per avere una rete mondiale? La sentenza europea è un vergognoso atto di protezionismo europeo contro i protagonisti dell'economia digitale, per dire che siccome non sono europei, allora noi ci fanno un po' schifo, gli vogliamo mettere il bastone tra le ruote. Esattamente come quelli che propongono, immagino che siano simpatici, la digital tax, presumendo un reddito da loro fatturato. Perché Oscar Giannini è così, mi vede come il tassator cortese, il tassatore della Rai. Vabbè, della Rai. Buongiorno, sono il tassatore della Rai. Lei ha pagato il canone, caro ascoltatore, caro Oscar Giannino, lei ha pagato il canone. Lei è in regola con il canone della Rai Radio Televisione Italiana. Allora dai, sono le 8:32 minuti, andiamo in pubblicità qualche minuto, 800 24 00 24, poi parleremo allora di questo con gli ospiti, insomma dobbiamo attaccare in Iraq, è giusto bombardare, siamo in guerra, ecco, di queste cose. Due aeroplanini. Tra poco. Siamo qui allora alle 8:37 minuti, Alessandro Milan, Oscar Giannino, e vogliamo approfondire qualcosa sulla questione Iraq e sulla questione dei bombardamenti? Lo facciamo, intanto salutiamo un collega, Domenico Quirico della Stampa, inviato, buongiorno Domenico. Buongiorno. Colui che l'ISIS, lo possiamo dire, Oscar Giannino, l'ha visto negli occhi perché è stato tenuto in mano a bande armate, insomma, estremisti. Quanti giorni, Domenico? 5 mesi. Ora si dibatte se questa possa essere la soluzione, bombardare, oppure qualcuno dice esercito proprio che deve entrare per smantellare l'ISIS. La tua analisi? Ma molto semplicemente, per cacciare l'ISIS dai luoghi che ha occupato ormai da più di un anno, che sono una parte consistente della Siria e una parte consistente dell'Iraq, occorrono le fanterie, cioè i bombardamenti non bastano, cioè bisogna andare sul terreno e espellere 20-30 mila combattenti, quanti ha l'ISIS, dalle città che ha conquistato. Mosul ha 2 milioni di abitanti, Iraq è una città di 1 milione di abitanti. Quindi non siamo a bande di predoni che si muovono nel deserto e si nascondono sulle montagne, bisogna riconquistare territori, e questa è una constatazione che bisogna fare, cioè bombardare, evidentemente, come dimostra anche il fatto della scenografica attività americana ormai da molti mesi, non ha spostato non ha di un millimetro l'ISIS dalle sue posizioni. Quindi, senta, questa tesi, cioè stivali sul campo con un contingente guidato dagli americani, così scrive Lucio Caraccio oggi su Repubblica, io stroneato, dice, e io sono d'accordo, e d'accordo anche lei, cioè quelli, gli esperti ci dicono così. Peccato Domenico Quirico, che però il giorno in cui dovesse veramente prepararsi una cosa simile troveremmo gli stessi giornali che insorgono dicendo che è una follia. E in fondo questo è il cortocircuito per cui non si fa più niente di serio contro l'IS, perché si sa quel che si dovrebbe fare e dall'altra parte si dice ma mica si può fare, come se ne esce? Guardi, quello che mi preoccupa non è tanto il, come dire, la necessità di certe azioni che sono necessarie per ovviare alla passività con cui per 4 anni abbiamo accettato quello che accadeva ad esempio in Siria, che è il luogo come dire iniziale di tutta questa tragedia, non l'Iraq, attenzione. Sì, sì, certo. Quello che mi preoccupa è come dire l'emergere e il moltiplicarsi in queste circostanze di strateghi da osteria, gente che ha giocato 3 volte a risico in vita sua, che improvvisamente si mette a muovere armate, portaerei, eserciti, eccetera eccetera. Allora, un intervento militare che, ripeto, credo sia a questo punto indispensabile, deve però partire dalla constatazione della situazione di fatto, non da delle mitologie. Allora, già il fatto che venga, come dire, fatta una distinzione tra la Siria e l'Iraq è la dimostrazione che questo realismo sulla situazione di quei luoghi non esiste, certo. Nel senso che non si può dividere la Siria dall'Iraq, perché la situazione politica nei due paesi, che non esistono più perché l'ISIS li ha spazzati via, è diversa. Allora l'ISIS ha semplificato in modo brutale e squassato la situazione geopolitica, ma anche la situazione strutturale di queste società. Cioè non è più il mondo che esisteva prima dell'ISIS, e questa è la sua pericolosità. Allora faccio un altro esempio. In Siria in 4 anni, oltre che i 240.000 morti, di cui evidentemente gli stessi laudatori della necessità e dell'urgenza degli interventi di oggi non si sono assolutamente occupati nei 4 anni precedenti, e non sono combattenti, sono civili, esattamente. Allora, ci sono 8 milioni di profughi o di rifugiati interni. Allora, questo significa che la società siriana è stata completamente devastata nelle sue strutture, e quindi l'analisi di quella società non è più, non può più essere la stessa, e le conseguenze che un certo tipo di intervento militare o un altro tipo di intervento militare in quei luoghi determinerà su quella società, è completamente diversa. E tra l'altro, insieme a Domenico Quirico, caro Oscar Genino, vogliamo salutare il presidente della commissione difesa al Senato, vale a dire il senatore Nicola Latorre. Senatore, buongiorno, e buongiorno. Grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, radioascoltatori. C'è anche l'aspetto politico qui, caro senatore Latorre. Il titolo del Messaggero è Mattarella mette i paletti, Repubblica spiega di una presidenza del Consiglio imbarazzata e incazzata per l'uscita delle notizie sul Corriere, che da una parte renderebbe complicata una cosa che però apprendiamo, ci hanno chiesto gli americani, l'hanno chiesto direttamente a Renzi. Sì, ce l'hanno chiesto con un faccia a faccia. Ma il governo si è trovato a mettere il carro di fronte ai buoi, un po' così. Allora, andando per ordine, intanto io credo che le considerazioni che faceva Quirico offrono delle utili spunti di riflessione ulteriore. Come giustamente osservavate voi, c'è un grande, è un enorme problema politico. L'Occidente in generale, Stati Uniti e l'insieme dei paesi occidentali, rispetto a tutto quello che sta accadendo in quella parte del mondo, ormai sono anni che hanno difficoltà a comprendere, decifrare, interpretare, e soprattutto noi ci illudiamo che si possa affrontare qualsivoglia iniziativa militare prescindendo da una strategia politica di medio-lungo periodo. Infatti noi abbiamo pagato e continuiamo a pagare prezzi altissimi ad iniziative militari che non avevano valutato e contemplato le conseguenze, sì, e non avevano soprattutto immaginato una strategia politica. Questo però, senatore, è per il passato. Però no, ora no, anche per il presente, nel senso che io sono per esempio convinto che per parlare di una cosa che ci sta particolarmente al cuore come la Libia, certamente quella iniziativa militare fu discutibile, ma l'errore clamoroso che è stato commesso è stata la gestione del dopoguerra. Senta, approfitto perché noi abbiamo poco tempo per chiederle questo. La ipotesi politica che l'utilizzo di quei quattro tornado fin qui da ricognizione per modeste azioni di bombardamento solo sulla costa irachena e non in Siria serva nel caso in cui a Bernardino León riesca di fare l'accordo tra Tobruk, le rappresentanze spaccate della Libia, quindi tra Tobruk e Tripoli prima della fine del suo mandato a ottobre, e che a quel punto ci sia un bollino dell'ONU per un'azione anche militare in Libia con il loro consenso, e che il coordinamento militare, è noto, ci siamo candidati a farlo, sia dato all'Italia. Ecco, l'ipotesi che quei quattro bombardieri, se il Parlamento vota adesso, li utilizziamo per lanciare qualche simbolica bombetta, serva in realtà per farci dare con certezza quel coordinamento militare in Libia che ci interessa di più perché viene del 90% dei flussi eccetera, è fondata, senatore Latorre, o è un'ipotesi giornalistica? No, io dubito che questa ipotesi sia fondata. Intendiamoci, il primo punto è che non si può, in questo io sono molto d'accordo, pensare alla lotta contro l'ISIS, alla guerra contro l'ISIS, perché di questo si tratta, e perché con l'ISIS l'elemento di novità che è intervenuto è che non ci sono margini di mediazione. L'ISIS lo si sconfigge soltanto se lo si batte militarmente, non ci sarà mai la possibilità di una mediazione politica, e sarebbe un grave errore separare questa lotta in tre capitoli: Siria, Iraq, Libia. Sono tutti capitoli di una stessa battaglia. C'è una coalizione internazionale, tra l'altro piena di contraddizioni interne che andrebbero gestite, risolte e velleitario secondo me, ma andrebbero gestite, e in questo senso l'iniziativa russa in Siria non aiuta a gestire queste contraddizioni. E in questo quadro è chiaro che a ciascun paese va affidato un ruolo, una funzione, un compito, e in questo quadro non credo che la nostra priorità sia la Libia. Sia la Libia, quindi no, dice non è fondata, però alla fine. Però è tutto si lega. Io vorrei capire però se c'è un imbarazzo politico su quello, cioè sul leggere sui giornali l'Italia bombarda in Iraq e il Parlamento non lo sapeva. Renzi ha rinviato la visita in Libano per questo. Quindi il Parlamento l'imbarazzo non lo sapeva, cioè non è stato comunicato al Parlamento, senatore Latorre. Esatto. Naturalmente questo è da addebitare a chi ha diffuso queste notizie. Sì, alla gola profonda. Non certamente. Da questo punto di vista il governo, innanzitutto il Presidente del Consiglio, ma anche il Ministro della Difesa e il Ministro degli Esteri, già nel nell'agosto del 2014, quando noi decidemmo con un voto parlamentare, in quel caso delle commissioni, perché furono convocate in piena estate e non si potevano convocare Camera e Senato, c'erano delle difficoltà per ragioni ovviamente di urgenza, deliberammo di dare le armi ai curdi e poi fornire gli aerei di ricognizione, l'aereo di rifornimento in volo e gli addestratori, ma in quella occasione fu detto con chiarezza che qualsiasi ulteriore iniziativa doveva passare. E il fatto chiaramente di leggere che una decisione del genere non ha fatto piacere, secondo me non ha fatto piacere innanzitutto al governo, che sa non c'è dubbio. Né agli americani, e facciamo finta che anche gli iracheni. Ringraziamo qui Domenico Quirico e il presidente della commissione difesa del Senato. La Torre, sentiamo qualche ascoltatore. Sì, Davide da Monza ci chiama. Davide, buongiorno. Sì, niente, io sono d'accordo con Quirico perché lui ha detto una cosa giustissima. Provate a immaginare se la Germania nazista, che fu bombardata per anni e addirittura indiscriminatamente sopra le città, non vi fossero arrivate le truppe di terra. Oggi forse ci sarebbe ancora la Germania nazista qui a comandare. Eppure che pensano che con qualche bombetta che buttano così, magari mirata, possono sconfiggere quegli agguerriti uomini che sono là e vogliono trattenere il paese. I paragoni, Davide, però non sono sempre facili nella storia. Poi tra l'altro, Oscar, qui c'è da dire che bombardare, cioè molto spesso l'ISIS si nasconde tra i civili, sono a Mosul per esempio, una città di 1 milione di abitanti, e ci sono quelli dell'ISIS. Che fai? Bombardi? Vai a prendere anche i civili se... No, io mi limito a constatare però che voci autorevoli, che non possiamo sospettare di essere dei pazzi guerrafondai, Domenico Quirico, una persona di fronte alla quale io mi ginocchio in silenzio, non so come dire. Allora, questa cosa del ISIS, Daesh, chiamiamolo come diverso, o si prende per quello che è, e l'Occidente, grazie agli errori micidiali di questo che vi sta simpaticissimo, che si chiama Obama, negli anni dalle primavere arabe in poi, e poi sulla Libia, e poi sulla Siria, eccetera, eccetera, noi siamo rimasti senza una linea, senza un'idea, riempiamo i giornali dicendo... La realtà è la sfida più terrificante degli ultimi anni, provoca fughe di milioni di persone, morti di migliaia di profughi. E noi che facciamo? La Siria è esplosa. Noi abbiamo perso ogni capacità di far seguire alle parole e alle analisi i fatti. E mi dispiace, Putin su questo gioca. Putin non ha bisogno dei tempi diplomatici. Putin va, manda le truppe di terra, manda gli aerei, manda l'incrociatore. Non ha bisogno neanche di una stampa critica o di una stampa amica o nemica. Ed è diventato di fatto adesso il perno insostituibile per la soluzione del problema, perché se l'è preso il ruolo. Se tutti coloro, oggi dicono, è come il nazismo, un domani se qualcuno decidesse di partecipare a contingenti di solo aerei, navali, ma di te, che cosa direbbe? Cambierebbe idea alla prima vittima. Ma sicuramente Domenico Quirico, che tra l'altro, come ci ha detto, è stato 5 mesi in mano a queste persone, ci ammonisce da tempo, quando è tornato sulla stampa, dalle colonne della stampa, a dire: caro Occidente, o facciamo qualcosa, oppure questo qualcosa ce lo ritroviamo, come dire, alla porta che ci bussa, e non è un bel qualcosa, no? Che sta dalla parte. Posso dirti, l'intervista alle figlie di Leon Klinghoffer, che fu ucciso, l'americano, sulla Stella Hotel, sull'Achille Lauro ai tempi di Craxi, e che dicono: voi non siete cambiati, siete un paese che tradisce le idee. Oggi sono intervistate su Repubblica. Oggi su Repubblica. È un bel argomento di riflessione, su come noi siamo pronti a dire una cosa e a farne un'altra. Allora, sentirei Mara, che ci chiama da Napoli. Buongiorno Mara. Ciao, buongiorno a voi due. Buongiorno. Senta, io sono d'accordo, già hanno detto. Più attenti tutto, a noi due, Oscar, che buongiorno. Ecco. Dica Mara, dica. Sto attenta. Sono d'accordo col senatore Latorre che bisogna sconfiggerli, bisogna fargli la guerra, perché questi ce li troviamo sotto casa. Poi la diplomazia, la politica con questi dell'ISIS, però Mara, siamo tutti così, dialogo. Poi appena bombardiamo, eccolo lì, per esempio il Fatto Quotidiano: siamo in guerra ma non si dice, l'Italia ripudia la guerra, Oscar Giannino poi odia i pacifisti e quindi... Io odio i pacifisti, no. Io odio gli esattori delle tasse. Va bene. No, per dire che poi dopo, quando si va in guerra, poi dopo ci sarà tutto il dibattito, come hai detto tu Oscar, gli stessi giornali che oggi dicono facciamo un intervento militare diranno: no, che vergogna l'intervento militare. E ce li troviamo sotto casa. Eurabbia, come diceva Europabbia, Eurabbia. Lei ha paura dell'Eurabbia. Sì, beh, insomma, sì. Non mi pare che sia una paura inventata, questo, quello che vogliamo dire, però insomma, non bisogna neanche spargere il panico. Vabbè, noi li attacchiamo, poi dopo si vede. L'importante è che si tolgono da mezzo. Questo è buon senso. Allora, il buon senso significa: se la pensi così, devi fare delle cose, altrimenti parlare delle vittime dell'ISIS e poi continuare a parlarne. Francesco da Roma, è brevissimo, in 30 secondi, per favore. Sì, io volevo soltanto fare una riflessione, che ciò che è fondamentale far comprendere agli italiani, e questo vorrei che venga discusso in Parlamento, è che l'intervento dell'arma aeronautica da sola, o comunque dei bombardamenti dei missili, non risolve. Esatto. Bisogna intervenire massicciamente, con forze di terra. È una cartuscella politica a un tavolo diplomatico, hai perfettamente ragione. Quindi è il classico mezzuccio all'italiana. Ma l'abbiamo detto, cioè, per acquisire un po' di potere, per altri giochi diplomatici, forse anche per avere quel consiglio di sicurezza dell'ONU, un posto non permanente, peraltro. Sì, no? può essere che Renzi voglia anche tutto, così annuncia l'inizio di una nuova sfera universale. Come ci annuncia ogni giorno qualunque cosa. Senti, manda il coso del gufo. No, ma che coso del gufo? Ma che cosa? Che Renzi ti sente. Ma Renzi lo invitiamo, prima o poi verrà. No, Renzi ha una promessa formale che ha assunto. Quindi possiamo dire ai nostri ascoltatori: saluteremo la caporista se viene qua. Noi gli chiederemo, eccetera, eccetera. Ai lettori di Roma posso consigliare la lettura di un bel articolo sul Fatto. Buzzi pagava la fondazione che stipendiava Alemanno, di Marco Lillo. Tanto per non ricordare che bene che cos'è la destra italiana nel passato. Bene. Allora Oscar, noi ci ritroviamo domani. Io sono alle 6.30, tu alle 8.15, 8.15 minuto più minuto meno. Chi volete, io sono anche alle 16.30 sulla versione di Oscar, ovviamente. E poi il sabato. Va bene, a domani, ciao a tutti.